voglio girare il mondo anche se la gente ride, anche se tutti quanti mi consigliano di restar, e voglio andarmene via proprio perché secondo loro dormire sotto le stelle vuol dire solo sentir freddo. Voglio girare il mondo anche se sul mio cammino incontrerò la pioggia che scendendo mi bagnerà, anche con l'acqua negli occhi potrò vedere tutte le cose che in una stanza all'asciutto io non potrei sognare mai. E voglio andarmene via proprio perché secondo loro sotto le stelle vuol dire solo sentir freddo. Voglio girare il mondo anche se sul mio cammino incontrerò la pioggia che scendendo mi bagnerà, anche con l'acqua negli occhi potrò vedere tutte le cose che in una stanza all'asciutto io non potrei vedere mai.